L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'Altro Pianeta, trasmissione che questa settimana vi porta a Urgnano. Non sapete dov'è, probabilmente non lo sanno in tanti di coloro che ci ascoltano, è una piccola località un poco più a sud di Bergamo, ma molto vicino alla città. Lì abbiamo raggiunto Marino Piasentà, l'ideatore del sistema FED per la refrigerazione industriale, un sistema con cui vinse il premio Legambiente 2008 per la migliore innovazione tecnologica. Fu allora che lo conoscemmo. Fu per la prima volta nostro ospite proprio per questo premio. Oggi lo ritroviamo perché ci ha chiamato per dirci che aveva mantenuto la promessa che ci aveva fatto nel 2008: riscaldamento gratis e senza combustione chimica. E questa promessa l'ha mantenuta e messa in pratica a Urgnano, e quindi siamo andati a vedere di che si tratta. La promessa l'avevo fatta in 5 parole e avevo promesso che avremmo fatto riscaldamento gratis senza più usare nessun tipo di combustione chimica, senza più usare il gas né altro. Allora io avevo le idee chiare, però era un'esagerazione una promessa del genere, e siccome l'ho mantenuta sono qui per farvi vedere che l'ho mantenuta. Qui abbiamo fatto il riscaldamento gratis senza più nessuna combustione chimica e abbiamo realizzato un sistema di condizionamento in pompa di calore eliotermico. Prima di spiegare il pompa di calore, di spiegare le diotermie, è meglio che spiego che cos'è pompa di calore. Penso che sia meglio. Cominciamo dall'ABC. Allora, pompa di calore, cosa si intende? Allora, i condizionatori in pompa di calore sono delle macchine elettriche che il legislatore ha capito perfettamente e le mette come macchine per l'energia rinnovabile. Invece, molto spesso mi capita di sentire che vengono considerate delle macchine elettriche. Allora, anche le caldaie, se gli togli l'elettricità, non vanno più, perché ci sono delle pompe che fanno circolare dei fluidi che portano il nostro caldo e freddo in tutto il palazzo. Il pompa di calore in realtà funziona solo ed esclusivamente se c'è una fonte di energia rinnovabile. Sostanzialmente puoi averlo aerotermico, i normali split o i frigoriferi sono aerotermici, puoi averlo idrotermico, cioè condensato evaporato ad acqua, puoi averlo geotermico, cioè preleva il calore o il freddo dalla terra, e nel nostro caso abbiamo aggiunto una nuova sorgente che è eliotermica. Noi preleviamo il calore dai pannelli solari fotovoltaici, e qui dovrei spiegare un po': il pannello solare fotovoltaico è una sorgente di calore enorme, perché qualsiasi pannello solare fotovoltaico, catturando un grandissimo numero di fotoni, un'immensa quantità di luce, la trasforma in calore e diventa per noi una sorgente ideale per far funzionare bene una pompa di calore che deve trasferire questo calore raccolto dal sole all'interno della casa. È un anno che abbiamo aperto, che abbiamo finito questo impianto, l'abbiamo monitorato e adesso abbiamo i risultati finali dell'inverno, e effettivamente il riscaldamento è stato completamente gratuito. Qui dove siamo non c'è nessuna caldaia, nessun camino, nessun fumo, niente di niente, e abbiamo acqua calda sanitaria, riscaldamento per tutto un centro commerciale in modo più che normale. E allora adesso forse possiamo così dare un'idea, perché essendo alla radio ovviamente non lo potranno vedere, di che apparecchiature, di che macchine ci sono in questa che è, diciamo, la sala macchine bassa, no? Poi sopra invece sul tetto ci sono i pannelli solari di cui dicevamo. Questo è un piccolo centro commerciale, serve un discreto numero di attività commerciali questo impianto che tu hai fatto, e poi alla fine ci dirai, appunto, ci hai già anticipato, abbiamo riscaldato a costo zero, però qualche spesa c'è stata, ma spesa, devo dire, ridicola rispetto a quello che uno si immagina per una serie di negozi come questa. Qui davanti a noi che cosa abbiamo? Beh, in realtà è il condizionatore in pompa di calore ideale, che si compone di compressori, valvole d'espansione. In più è con il sistema FE che lo rende un condizionatore integrato. Lui può usufruire di diverse fonti, di diverse sorgenti anche contemporaneamente. Infatti noi qui usiamo effettivamente aerotermia, idrotermia e eliotermia. Per quanto riguarda l'inverno, è la sorgente assoluta, diciamo la principale, ma proprio in termini enormi, è quella che vedremo poi sul tetto, che è l'eliotermia, sono questi pannelli solari fotovoltaici. Per quanto riguarda l'estate, è un condizionatore in pompa di calore condensato ad aria e successivamente una piccola integrazione ad acqua se si vuole. Ma come strumento è uno strumento conosciuto, normale, composto da tutte tecnologie italiane, che è la mia passione. Io vorrei tanto portare una parola di speranza e di fiducia nelle tecnologie italiane. La meccanica italiana è la migliore del mondo. Non dico che anche gli americani e i tedeschi non facciano della buona meccanica, la fanno discretamente anche loro. Beati. Meno male che gli abbiamo dato un contentino, però gli italiani la fanno meglio. Molte aziende italiane fanno delle cose egregie, solo se costantemente ci manteniamo un certo primato, almeno in qualche cosa, riusciremo a dare lavoro per il futuro che serve, insomma. Allora, adesso siamo invece finalmente sul tetto, dove c'è l'altra componente fondamentale. È una bella distesa di pannelli solari quella che c'è qua, apparentemente li abbiamo normali. C'è un segreto, qual è il segreto? Allora, in realtà inserito dentro nel pannello solare c'è una serpentina che viene raffreddata a espansione diretta. Questa è fondamentale perché l'espansione diretta ci consente di andare a temperature d'inverno molto al di sotto dello zero. In questo modo noi riusciamo a raccogliere calore anche di notte, anche a temperature rigidissime. Infatti qui l'ho impostata parto da meno 16. Vuol dire che da meno 16 fino a 0 gradi è la grossa differenza che facciamo rispetto a tutti gli altri sistemi di condizionamento. Il calore che recuperiamo da questi pannelli solari di notte è aerotermico. Di giorno all'aerotermia, che è già una quantità notevole perché una distesa importante di pannelli, abbiamo una grossa superficie, di giorno appena esce fuori un niente di sole, noi raccogliamo anche il calore del sole moltiplicato dalla nanotecnologia del silicio, che qui spiego perché funziona il pannello solare. Allora, nel 1921 è stato Albert Einstein che ha capito che si poteva fare corrente elettrica con il silicio e dal sole, perché l'energia elettrica fondamentalmente è la forma più evoluta di energia cinetica, anzi è la forma di energia cinetica utile all'uomo. Allora, dove noi vediamo del movimento? Bene, qualsiasi tipo di movimento, il vento che c'è in questo momento sul tetto, è energia ed è la forma di energia più vicina, più libera, più facilmente utilizzabile per trasformarla in energia elettrica. Quello che noi vediamo, la luce che apparentemente è ferma, in realtà è la forma di energia cinetica più evoluta e sofisticata che si possa pensare. È il massimo della velocità. Dunque, questi fotoni vengono catturati dalle nostre nanomolecole del silicio, imprigionate nel wafer del pannello fotovoltaico e rimbalzano, facendo muovere gli elettroni, perché sono gli elettroni che ci danno la corrente elettrica. Il fotone che è rimasto imprigionato ci darà solo il calore. Ora il rapporto è il 15% contro l'85%. Vuol dire che noi abbiamo, ogni volta che vediamo un pannello solare fotovoltaico, abbiamo una potenzialità termica che è di 5 volte superiore a quella elettrica. A questo punto è chiaro come questo sistema diventi un sistema sostanzialmente di riscaldamento gratuito, perché nel pannello che c'è già noi abbiamo anche il calore che ci serve. Lo trasferiamo col pompa di calore e i risultati sono che il pannello solare raffreddato aumenta leggermente la sua produzione elettrica. Nel caso in oggetto dove siamo adesso, noi abbiamo consumato circa 6.000 kW in tutto l'inverno per riscaldare tutto l'ambiente del centro commerciale e abbiamo ottenuto altrettanti kilowatt di superproduzione elettrica dai pannelli solari. È per questo che dico che è gratis. Non c'è il trucco di usare i pannelli solari per fare la corrente elettrica e consumarla. No, noi determiniamo un maggior rendimento ed è quel maggior rendimento determinato dalla nostra macchina che è quello utilizzato per riscaldamento come consumo. In realtà tutto il gioco regge perché il pannello fotovoltaico ha una superficie importante aerotermica e contemporaneamente, quando appena appena viene un raggio di sole, ha una potenza in calore che non sto neanche a raccontare, enorme. Riportandoti più terra a terra, quelle piccole spese, che sono piccole, di cui abbiamo parlato prima, da dove derivano? quelle piccole spese sono le spese che ci servono per far circolare il liquido, il gas refrigerante all'interno di tutti i tubi in modo da trasferire il calore dalla sorgente che è il sole, in questo caso, all'ambiente che è il centro commerciale dove abitano le persone. Sono 1500 euro abbiamo detto, sì, vero? Nel corso di tutto l'inverno. La collaborazione con il Politecnico di Torino, dove interviene? La cosa viene così, noi ci troviamo qua, io faccio questi impianti, li evolvo e arrivo a questo tipo di impianto, ci arrivo l'anno scorso. Durante la fase di sperimentazione scopro che c'è un fenomeno che mi incuriosisce molto e che non capisco bene. Allora non mi resta che chiamare l'Università di Torino, il Politecnico, e parlare con i vari professori e dirgli: guarda, io vedo questo, può venirne fuori qualcosa di buono? E in questo momento stiamo discutendo proprio di quello che abbiamo visto in questo impianto. Si tratta di una questione dei fluidi, dei gas che stiamo usando, per vedere se è possibile fare un'ulteriore evoluzione che sarà più sul sistema frigorifero in quanto tale, però non è più, diciamo, sul riscaldamento e condizionamento, questo è già un punto finale. Invece sul sistema frigorifero abbiamo ancora dei buoni spazi per studiare, per migliorare, per fare delle nuove cose. Per maggiori informazioni su questo sistema vi rimandiamo al sito internet che è www.sistemafee.it. Lì ci sono anche tutti i contatti per raggiungere Marino Piasentà. Ma torniamo per un istante a Urgnano, perché già che eravamo lì non potevamo non sentire i proprietari dello stabile per capire anche il loro grado di soddisfazione. Marco Birolini. Avevamo in mente, volevamo fare un investimento che abbiamo fatto per l'impianto fotovoltaico, poi abbiamo saputo che c'era questa possibilità di unire quella che è la climatizzazione dei locali con i pannelli fotovoltaici, in modo tale da unire le due cose e avere bassi costi di climatizzazione e un aumento del rendimento dell'energia elettrica dell'impianto stesso. E questa accadeva all'incirca quanto tempo fa? Parliamo dell'anno scorso, 2011. È stato un inverno particolarmente rigido, sì. Avete scelto di fare dei pannelli solari, e la soddisfazione, diciamo, dopo un inverno in cui si è arrivati anche a meno 18, com'è? Non abbiamo notato la differenza, l'impianto ha fatto il suo lavoro e il rendimento dei pannelli è stato soddisfacente. A livello di costi? A livello di costi, diciamo che i costi di questo tipo di impianto sono molto più bassi rispetto a un impianto tradizionale. Quindi voi avevate anche fatto dei preventivi sull'impianto tradizionale prima? E alla fine avete scelto comunque questa via. Ma non solo il costo iniziale dell'impianto, non solo la realizzazione, ma anche poi i costi di gestione. In quanto tempo rientrerete delle spese fatte? E parlando di fotovoltaico, sicuramente dopo i 7 anni. Noi stiamo ricevendo regolarmente gli incentivi da parte del GSE previsto per gli impianti fotovoltaici del terzo conto energia. E visto che Marino Piasentà si è messo nelle mani del Politecnico di Torino, allora abbiamo contattato anche il professor Marco Masoero, che è docente di fisica tecnica industriale al Politecnico, per sapere cosa pensa lui di questo sistema ideato da Piasentà. I punti che io mi sento di sottolineare sono: primo, l'originalità dell'idea; secondo, il fatto che è corretto l'accoppiamento fotovoltaico pompa di calore fatto in quel modo, cioè ci sono degli aspetti proprio originali che io non ho mai visto fare da altri, no? E poi, come considerazione generale, quali sono le condizioni che possono favorire lo sviluppo del mercato delle pompe di calore? Uno, superare il fatto che l'energia elettrica in Italia costa cara, e il fotovoltaico può essere la strada, insomma, perché il fotovoltaico ce la produce gratuitamente. È chiaro, c'è il costo iniziale dei pannelli fotovoltaici che va messo in conto. In secondo luogo, questo delle competenze tecniche del personale sarebbe un altro punto da sottolineare, perché potrebbe svilupparsi un mercato dei frigoristi, dei tecnici frigoristi, interessante, in una situazione in cui il mercato del lavoro è molto ingessato. Mi sembra che